Che ora abbiamo fatto? Sono quasi le 9. Ancora niente? Se c'è il segnale vuol dire che stanno tentando di trasmettere. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata dell'Arcadia. Grazie a Radio Big World. Oggi parliamo di zombie. Non c'è più posto all'inferno. Come? È una cosa che mi diceva sempre mio nonno. Conoscete la macumba? Il voodoo. Mio nonno era una specie di stregone a Trinidad. Ci diceva, quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla terra. Cosa c'entrano gli zombie? Crescendo sono sempre rimasto affascinato dagli zombie per via dei film come Il ritorno dei morti viventi, L'alba dei morti viventi, Il giorno dei morti viventi e così via. Naturalmente, quando è esplosa questa mania nel 2000, ero eccitato, amavo quel genere, nessuno pensava che gli zombie fossero uno spettacolo più di me. Ma ormai sono passati un po' di anni e da allora sono cambiate un po' di cose. Dopo essere diventato serio riguardo il ricercare, imparare alcune delle tristi verità del mondo, il mio amore per gli zombie è morto. Adesso, quando vedo un film sugli zombie o un telefilm a riguardo, vedo una metafora per la pesante massa di persone stupide che fanno parte di questa società di schiavi. La versione hollywoodiana degli zombie non è nient'altro che una presa in giro della condizione attuale della popolazione mondiale. Ogni giorno che passa, le persone diventano sempre più materialisti, egoiste, senza alcuna capacità di ragionamento, e la mancanza di capacità cognitiva. Proprio come le orde di non morti, come zombie, andiamo ovunque ci sia un briciolo di vita o che sembra che abbia un'anima e lo distruggiamo, lo divoriamo, portandolo a far parte di questo vasto sistema di masse vuote, pronte a piegarsi alla minima pressione di una figura autoritaria, alla pubblicità, a ciò che è di moda. La maggior parte delle persone non si rendono conto che sono loro stessi. Nei film sono gli zombie, sono le persone, è quello che siamo oggi. Non realizzano che sono stati programmati per essere conformi alla massa da seguire, abbandonando completamente la ragione, pensieri propri e la capacità di decidere liberamente per se stessi. Non solo questo, ma il vostro, il mio, il nostro tempo sulla terra, ed è essenzialmente la vita, la nostra vita, la vostra vita, vi è stata rubata direttamente da sotto i piedi. Andiamo a scuola per essere istruiti per il nostro futuro di schiavitù, poi come adulti schiavi del nostro lavoro che consuma la maggior parte del vostro tempo, mentre i vostri figli vengono cresciuti dallo Stato. Quindi quando torni a casa non hai né la voglia né le energie per fare niente che abbia un valore. Mangiamo e beviamo veleno, che sono nei cibi e nelle bevande di tutti i giorni, e ci mettiamo a guardare la televisione, esponendoci a quel sistema fatto per tenerti in uno stato dormiente senza che ve ne rendiate conto, e siete così stanchi che lasciate che i vostri figli facciano lo stesso. Il ciclo continua. Continuate a consumare senza rendervene conto, continuate a mangiare e bere i veleni che servono per tenerci in questo basso stato di sorveglianza, per tenerci dormienti. Continuate a lasciare che sia la televisione a decidere la vostra visione del mondo, come deve essere il mondo. E perché continuiamo a fare questo? Perché ormai è un paese di zombie. Io ogni giorno che esco vedo sempre più ragazzi che non pensano, che agiscono come zombie. In masse fanno danni senza pensare né alle conseguenze né per la loro salute né per la salute degli altri né per il bene di nessuno. Perché quando escono da scuola non c'è un qualcosa di migliore nei ragazzi? Non hanno imparato niente. Cosa imparano a scuola, soprattutto da piccoli? Cosa gli viene insegnato? Gli viene insegnato le basi, poi cosa ti viene insegnato insieme alle basi per poter comunicare con gli altri? Cosa ti viene insegnato oltre alla scrittura, alla lettura? Ti viene insegnato i dinosauri, è la seconda cosa che ti insegnano. Dopo leggere e scrivere c'è i dinosauri, la terra è tonda, il sistema solare, e non ti viene insegnato niente. Non c'è più l'insegnamento del rispetto, veniamo fatti diventare stupidi. Non ci viene insegnato a migliorare noi stessi come persona, ma a competere. E non lo so, questa competizione secondo me ci porta a essere sempre più stupidi, perché vogliamo sempre di più, vogliamo sempre più essere qualcosa, qualcuno, vogliamo sempre apparire più di essere, più di essere se stessi. L'essere se stessi oggi quasi non esiste più. Perché quando vediamo qualcuno che è se stesso è un pazzo, è qualcuno che è di fuori, che ha dei problemi, come in questo caso me. Io per tanti ho perso la testa perché la vedo in maniera diversa, perché mi comporto in maniera diversa, vivo la vita in maniera diversa, la prendo in maniera diversa, e questa cosa le persone lo vedono, cioè qualcuno lo accetta e sente che il buono che c'è in te, ma altri invece sono spaventati da questa cosa che vedono e sentono. Quindi siamo pronti al risveglio, siamo pronti a uscire dalle tombe in cui ci hanno messo? Speriamo di sì. Quando vediamo in questi film che il protagonista o comunque i protagonisti si ritrovano, di solito questi film partono e si ritrovano in mezzo al caos, in mezzo alla confusione, è tutto caotico, non si rendono conto di quello che sta succedendo, si ritrovano in mezzo a tutti questi zombie e cercano di sopravvivere, un po' come facciamo noi. Perché quando uno inizia a svegliarsi, a rendersi conto della realtà, ora sto parlando della vita vera di tutti i giorni, però quando uno si rende conto che ci stanno prendendo in giro e inizia a vedere la stupidità di alcune persone, inizia a rendersi conto che davvero tante persone sono intorno o comunque hanno una maschera di stupidità, o comunque sono convinti di alcune cose che non hanno completamente senso, o ignorano completamente il funzionamento del mondo in cui sono, e agiscono per abitudine, come fanno gli zombie. Almeno nei primi film di zombie c'erano gli stessi che cosa facevano? Ripetevano le azioni di tutti i giorni, come l'andare a fare la spesa, andare al lavoro, e così via. E il povero protagonista che faceva? Cercava di sopravvivere, scappare a questa massa di gente senza cervello che per l'appunto cercavano gli zombie. I zombie cosa fanno? Cosa cercano? Io, almeno i film più vecchi, fanno zombie, cervello, cervello. E a volte mi sembra di vedere le persone che fanno davvero in quel modo, si comportano in quel modo. Come dico io, alcuni sono burattini, ma è un modo gentile per dirgli che sono degli zombie. Almeno io è quello che vedo. Quello che vedo tutti i giorni, esco fuori e vedo la gente stupida e fa cose senza senso. Poi non voglio fare tutta un'erba un fascio, certo. Ora io non so chi mi ascolta, l'età, il range di età di cui uno mi ascolta, o comunque quello che uno fa per vivere. Io parlo per esperienza personale, per quello che ho vissuto durante, perché comunque ho 31 anni, non sono abbastanza vecchio da poter dire che so com'è la vita, però ne ho passate abbastanza da poter dire che qualcosa un pochino ne capisco, almeno è un mio punto di vista, ognuno ha il suo, non deve per forza essere d'accordo con il vostro. Per l'appunto l'altro giorno parlavo con un mio amico anche delle canzoni, no, che ci diano che siamo zombie e tutto il resto. Dipende uno come le recepisce, perché chi ha fatto la canzone o comunque il film manda un messaggio. Questo messaggio viene percepito dalla persona a seconda della strada che ha fatto, a seconda del momento in cui viene a contatto con questo messaggio. Come nella musica, c'è della musica e per alcuni gli dà la carica, e altri invece la stessa musica che dà la carica a qualcuno magari fa piangere altri o gli dà totalmente altre emozioni. Questo perché? Perché abbiamo un bagaglio diverso. Quello che vedo io non è per forza quello che vedono gli altri. Però se c'è qualcuno che ti dice guarda che questa cosa potrebbe avere questo significato, e se non ci hai mai pensato a una cosa di genere, ti fermi un attimo a pensarci e dici ma lo sai che forse tu hai ragione. Credo, almeno spero, di aver fatto cambiare idea su tante cose a qualcuno, perché il mio obiettivo non è né diventare famoso né fare soldi con questa cosa. Il mio obiettivo è cercare di migliorare la vita di chi mi ascolta. In che modo? Magari facendogli vedere un altro punto di vista, un'altra prospettiva. Io cerco quello che dico, io ci credo, è quello che sento, spero che sentiate, che riuscite a sentire questo sentimento che ho di libertà, perché è quello che cerco di fare, cerco di liberare le persone da questa prigione mentale che si sono fatti. Oggi accettiamo il degrado con facilità, non ci ribelliamo più, siamo proprio diventati degli zombie. È brutta come cosa vedere le persone a cui tu vuoi bene, a cui tieni, o comunque sia amici, parenti o anche persone che non conosci, renderti conto, vedere che sono sfruttate, che sono trattate male proprio come in schiavitù, ti fa star male. Ti fa star male quando quando vuoi bene a una persona, non vuoi che stia male, non vuoi che soffra, non vuoi che ci sia qualcuno che la sfrutta a vita. È quello che sta capitando a noi, siamo sfruttati a vita. come a Matrix. Nasciamo, ci viene insegnato le basi, poi veniamo buttati nella massa e quello che fai lo fai per riuscire a sopravvivere e non perché ti piace quello che fai. Tante persone fanno il proprio lavoro perché devono campare, devono tirare avanti. E questo lo zombie, l'accettare il... Ora, io non voglio offendere nessuno, non è perché vi impegnate e cercate di tirare avanti siete degli zombie, no, però c'è chi lo fa senza rendersene conto, c'è chi davvero deve lottare per sopravvivere e c'è chi fa le cose perché gli è stato detto che è così, il mondo è così, la società è così, devi comportarti in questa maniera. Questo non è essere liberi, non sei libero, perché alla fine se ci pensi non sei libero di scegliere. Almeno io quando andavo a scuola non ho avuto scelta. Che scelta ho avuto? Sono arrivato alle medie che avevo quanto? 12 anni? 13 anni? Finito le medie ti dicono dove vuoi andare? Ma che ne so io dove voglio andare? Come fo? Io finora tu mi hai raccontato della seconda guerra mondiale e dei dinosauri. Che ne so io che strada voglio prendere? Perché? Perché non mi hai fatto crescere dentro, non hai fatto crescere lo spirito che ho dentro, le mie potenzialità non le hai portate fuori, ma hai solo riempito un corpo con delle idee belle pronte. E qui lo zombie che si comporta come gli viene detto di fare, la società ti viene insegnato che è in quel modo e quindi ti comporti come tutti quegli altri. Quegli altri cercano di sopravvivere, tu fai lo stesso. E c'è quello che se ne approfitta, di quello un pochino più coglioncello, c'è quello che è più violento nei confronti del più debole, invece di aiutarsi e darci una mano, come dico sempre. Siamo tutti uguali, no? Perché dobbiamo questa competizione che ci rende stupidi, ci fa stare solo peggio, perché c'è quello che cerchiamo di guadagnare su, io cerco di guadagnare su di te, te cerchi di guadagnare su quell'altro e siamo sempre più stupidi, ci diamo contro a vicenda, non ha senso, siamo proprio degli zombie e si strappano a brandelli per un pezzettino di carne, siamo arrivati a quello. Spero di essere riuscito a farvi un po' riflettere, di riuscire a farvi vedere un punto di vista completamente diverso delle cose, perché siamo arrivati dove la finzione dei film, quello che vediamo finto è la realtà. E invece la vita di tutti i giorni è diventata la finzione, perché mentiamo a noi stessi, noi ci svegliamo, mettiamo una maschera e andiamo avanti in quel modo. Quindi togliamo la maschera, dobbiamo smettere di avere paura di quello che siamo, perché chi ci vuole bene ci accetta per quello che siamo. Vi lascio con un pezzo tratto sempre dal film di Romero, che praticamente gli ha fatti tutti lui i film, quindi non la prendete troppo sul personale. Un saluto dall'Arcadia, grazie a Radio Big World, io sono Gabriele, alla prossima, ciao. Io mi domando se valga la pena di salvare l'umanità. Guardate che cosa siamo arrivati. Per quello che ne so io, i cervelli della gente sono già morti, sono solo gli idioti ad essere vivi. E sto cercando di aiutare anche gli idioti come voi. Va, per favore, per favore.